che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, sono di nuovo Andrea Paolo di Allineamenti. E in un altro free walking tour a Belgrado ci siamo ritrovati sulla tomba di Tito. Non dovete immaginarvi un cimitero, in realtà Tito aveva fatto costruire un piccolo giardino botanico accanto al suo ufficio e la sua tomba si trovava in questo giardino all'interno di una mega villa. Tra i tantissimi discorsi affrontati su tutto il 1900, un episodio significativo si è verificato quando abbiamo parlato del bombardamento dell'ambasciata cinese da parte della NATO nel 1999. Io vi dico in sincerità, quando ho messo piede a Belgrado pensavo di trovare una città con ancora le ferite dei bombardamenti e nessun palazzo storico ancora in piedi. Invece, come mi ha poi raccontato la direttrice dell'ostello quando gli ho espresso questa mia aspettativa, completamente smentita dai fatti, se andate a Belgrado scoprirete infatti una città bellissima. Dicevo, la direttrice mi raccontava come i bombardamenti NATO sono stati chirurgici, hanno colpito esattamente gli obiettivi e tanto per fornirmi un esempio mi disse: hai presente quella stazione televisiva bombardata in pieno centro? Io andavo a scuola nell'edificio a fianco e la scuola non ha avuto neanche un vetro rotto. E allora perché un missile ha distrutto l'ambasciata cinese provocando la morte di diversi diplomatici? Ve lo dico dopo il brano musicale. Funziona sta stronzata. È vero. È vero. È vero. Programmi per le ferie, l'estate si avvicina, papà per le vacanze mi porta tutti in Cina, il culto del dragone, la dinastia dei Ming, mi porto nel mistero di Singapore e Hong Kong. È vero. Guaiù belli papà, l'estate si avvicina, quest'anno mi rovina, mi porta a Terracina. C'è sta una sala gioca che pallero bowling, carambola, biliardo, flipper e ping pong. Azzo, azzo, azzo, azzo. Partiamo con l'aereo e appena siamo in volo, per sfizio voglio leggere i libri Marco Polo, seguire un po' le tappe della navigazione del lungo viaggio in Cina descritto nel Milione. È vero. Partimmo con furgone, mi chiama tangenziale, pregando a San Gennaro che oggi ferma a stradale, che con bolle scadute e senza assicurazione ci fanno un verbale che arriva un milione. Azzo, azzo, azzo, azzo. Direi di non portare camici e pantaloni, che appena siamo in Cina compiamo dei timoni. Andremo per Pechino, voglio sentirmi un po' con mano mandarina seduto sul risciò. È vero. Guaglio che sta più fresca, partimo che vermouth, la canottina aperta, scella non di suda, e appena al bagno vino in quell'acqua marrone, papà non vada a spesa, affitto pedalò. Ho preso una suite all'albergo Shangri-La, per colazione e cena ci fermeremo là. Serpenti, cani, insetti, chissà che gusto c'è, mangiare con le bacchette e bere del sake. È vero, è vero. Ha cepigliato in fitta una casa popolare, mezz'ora in bicicletta e si è arrivato a mare. Ha cepigliato pure tre bombole e baigon, se no mosche e zanzare ci fanno porano. Azzo, azzo, via via via. Voglio studiare a fondo la Cina. Voglio studiare a fondo la storia della Cina, il credo comunista, la fede e la dottrina, le massime confuse, quando è stata lunga la marcia vittoriosa che fece Mao Zedong. È vero, è vero. Voglio studiare a fondo la storia in un bagnino che aveva facendo uno strunzo con tutte le signorine. Si solo si avvicina a figlia Maiolanda, quando è vera Maronna faccio Mao Zedong. Prima di ritornare all'ultima mattina mandiamo agli amici una bella cartolina, ne spediremo una pure al commendatore col titolo del film dalla Cina con furore. È vero, è vero. Prima partivo a Napoli, l'ho chiesto a zia Concetta, ma presta la telecamera per fare videocassette, l'hanno per gli amici al centro Orione e il titolo sarà Da terra Cina con furgone. Azza! La verità che ci ha trasmesso la nostra guida, Vladimir, è che un razzo degli anni 50 era riuscito ad abbattere uno di quegli avanzatissimi aerei invisibili, gli stealth. I serbi avevano portato i pezzi dell'aereo all'ambasciata cinese perché i cinesi potessero studiarne la tecnologia e gli Stati Uniti, per evitare di perdere dei segreti tecnologici, hanno pensato bene di radere a solo quell'ambasciata. A quel punto una ragazza cinese del nostro gruppo ha chiesto: ma come mai nessuno ha mai raccontato questa verità? A momenti scoppiavamo a ridere per questo commento che arriva da una cittadina di un paese dove tante verità sono nascoste, come lo saranno anche in Italia. E veniamo all'Italia. Noi che cosa sappiamo di quell'episodio? Io mi ricordo abbastanza bene i giornali e i giornalisti italiani farsi beffe delle bombe smart, delle bombe intelligenti americane, talmente intelligenti da centrare un'ambasciata di un paese che non c'entrava con quella guerra. E difatti, una ricerca su internet troviamo le seguenti verità. Wikipedia parla di un probabile errore dell'intelligence americana. Ma il Secolo d'Italia riporta: ufficialmente si disse per un errore, ma è noto che la tecnologia delle bombe intelligenti consentiva, anche nel 1999, di colpire il bersaglio con un margine di errore di un metro, per cui risulta molto difficile credere a un errore involontario. Molto più credibile è l'ipotesi di qualcuno che ritenne che i cinesi avessero aiutato le contraeree serbe a individuare l'aereo invisibile e che quindi i cinesi siano stati avvertiti dagli alleati a non riprovarci. Una terza fonte disse che fu Slobodan Milosevic in persona a chiedere di ospitare i nuclei operativi dell'intelligence serba nei sotterranei dell'ambasciata. Ora lascio a voi la possibilità di chiedervi qual è la verità più credibile e decidere a quale volete credere. E vi auguro una buona notte. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.